Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Oggi a Destini incrociati si parla della capacità di mettere a fuoco la propria vita sullo sfondo della propria terra. Si parla di siciliani e di sicilianità. Si parla di verità e di giustizia che aprono la porta ad un nuovo futuro, ma anche di profumi e sapori che aprono il cuore. Siamo a Palermo, è il 26 gennaio del 2010. Sta per essere consegnato il premio Best Sicily, il premio dell'eccellenza enogastronomica siciliana, ormai giunto alla sua terza edizione. Tra i premiati c'è un grande cuoco che dall'isola se n'è andato da tempo. L'onorificenza è quella di ambasciatore siciliano del gusto nel mondo. Lui si chiama Filippo Lamantia. Filippo Lamantia. Ma l'eccellenza credo che i siciliani se la portano dentro da sempre. L'eccellenza è praticamente anche il lusso di andare al mercato e comprare un prodotto raccolto e curato da un contadino. Essere siciliano è una vocazione per Filippo, non solo un dato biografico. Come tutti i suoi conterranei, anche lui sente scorrere la sicilianità con le sue contraddizioni nelle vene. Ogni sua scelta fin da ragazzo è stata condizionata da quella determinata provenienza geografica e dall'insieme di cultura e storia che lo precede di secoli. Fare il cuoco è il risultato di una somma di esperienze che lo hanno segnato nel profondo. E non si tratta solo delle esperienze di profumi e sapori coi quali è cresciuto. Evidentemente a casa mia ho respirato sempre un'aria di cucina buona. Per la Sicilia, parlare di cucina è iniziare un viaggio dentro il viaggio. Ogni piatto dischiude prospettive di tempo e suggerisce immagini di luoghi. La sua varietà è ricca di prodotti, spezie, aromi, che testimoniano quanto l'isola si sia da secoli trovata al centro di mire e attenzioni di popoli. Un passato così ricco non può che lasciare in eredità un panorama immenso di testimonianze e a chi le sa cogliere e far fruttare in una professione un futuro certamente glorioso. Filippo è siciliano doc ed è riuscito a trasformare quel bagaglio in un mestiere. È un cuoco che ha a cuore la gente e che non vuole essere chiamato chef. È la gente che comanda, non le guide, non i cuochi. È la gente praticamente che ti dice tu fai un buon cibo o fai un cibo sicuramente. La sua incredibile storia è scritta nella sua voce, nel suo sorriso. Le sue mani hanno la capacità di tradurre la sua terra e di farla vibrare in un piatto. Filippo, inoltre, è convinto che se fosse rimasto a Palermo non avrebbe avuto lo stesso successo che da anni sta riscuotendo in tutto il mondo. Tutto dipende da quella terra così generosa, ma al tempo stesso faticosa, che è la Sicilia. Siccome praticamente che il nostro karma è pesante e abbiamo praticamente questa cosa incredibile del dare e ospitalità, capisci? Se tu tutto questo praticamente lo porti avanti fuori dalla Sicilia, diventi qualcuno. Quando i siciliani lasciano la loro terra, sanno mettere in risalto lo smalto che li caratterizza, abbandonando quel karma pesante che li fa essere tanto lagnosi in casa quanto esuberanti fuori. Filippo lo sa, è per questo che si trasferisce a Roma appena gli capita l'occasione. Roma è un crocevia di culture e di eventi, palcoscenico incredibile, generoso per chi lo sa calcare. Filippo non si fa trovare impreparato. Tutte le esperienze fatte prima sembrano essere volte a portarlo nella capitale. Quando alla fine degli anni 90 apre il suo primo locale a San Vito Lo Capo, il successo è così immediato che la guida dell'Espresso gli assegna subito 14 punti. La sua isola continua a dargli soddisfazioni, ma allo stesso tempo gli va stretta. Quando nel 2001 Lorenzo Zichichi, figlio del celebre scienziato Antonino, uno degli amici di sempre, gli chiede di seguirlo a Roma per fare l'organizzatore e lo chef di cene di gala, accetta immediatamente. Ora Filippo Lamantia è tra i cuochi più acclamati d'Italia, maestro della cucina mediterranea, a cui un magnate giapponese ha baciato le mani dopo una caponatina. È celebrato a Mosca, Londra, Chicago. È chiamato alla corte dei potenti dell'ONU, dell'Unione Europea. Richiesto dai palati vaticani, dalla moda, dalla finanza. La cucina che realizza è basata interamente sulle origini della sua terra. Come dimenticare la sua amata Sicilia? Eppure se ne è dovuto andare per trovare il suo nuovo posto nel mondo. Dal 2001 è a Roma e oggi finalmente ha coronato il suo sogno. Quindi qual era la mia grande sfida? Quello che praticamente tutti pensavano di fare, ma sino ad oggi nessuno c'era riuscito. Di far ritornare il romano e la gente appunto a Via Veneto, che la gente non frequentava più questa strada, soprattutto, e non andava a cena negli alberghi. Quindi credo che praticamente il progetto è vincente. Il 10 giugno del 2009 Filippo inaugura il suo ristorante in Via Veneto all'interno dell'Hotel Majestic. Quella sera all'ingresso ci sono un mucchio di paparazzi. Sembra di essere tornati alla Roma della dolce vita. La loro presenza è giustificata dal numero incredibile di VIP che presenziano all'evento. C'è Magalli, D'Agostino, Giorgio Gori, Cristina Parodi, Simona Izzo, Laura Morante. Ci sono proprio tutti, accorsi per degustare un po' della sicilianità che la Mantia sa trasferire ai suoi piatti. Per mettere in risalto i profumi della sua terra, Filippo pulisce gli accessi e rispetta gli aromi, senza confonderli o nasconderli. È la madre a trasmettergli la cultura della buona cucina, una donna forte, un punto di riferimento, anche se è stata un'esperienza molto particolare, avvenuta molti anni prima, a portarlo sulla via della sua professione, grazie anche all'intervento dell'altro protagonista di oggi, anch'egli siciliano al 100%. Che tra un po' atterrerò e qualcuno mi attende e mi sorriderà. Appena mi vede. Il lavoro di Filippo consiste nel far conoscere la sua terra. Ogni piatto che prepara racconta un angolo di Sicilia. E per lui è un onore esportare la sua cultura e le sue tradizioni in tutto il mondo. C'è però una particolarità. Lui cucina senza aglio e cipolla. Sembra assurdo togliere dalla tradizione culinaria siciliana i soffritti, eppure è così che a lui piace mangiare e il successo che riscuote sembra voler confermare questa scelta. E li rispetto tantissimo perché so che la cucina italiana è fatta di aglio e cipolla, solamente che io sono quello che non li usa, quindi la gente viene qua, ok, perché sa che io non lo utilizzo. La gente, detta le regole per lui, sono gli ospiti che frequentano il suo ristorante a dire cosa è giusto e cosa è sbagliato. E Filippo ha clienti illustri cui dare retta. Un caro amico e cliente Chiambretti, no? Lui che fa? Una volta che un mesetto fa è venuto, gli ho fatto un piatto e mi ha detto: senti Filippo, questo piatto è straordinario, soltanto che ci avrei messo questa cosa, perché ma lui c'è il ristorante, poi è un gourmet, è un cuoco. Ci ha detto: ok, vabbè, io ho registrato, ho preso appunti, e ieri sera è venuto e io gli ho fatto il suo piatto. Tra i suoi piatti simbolo, che richiamano sempre rigorosamente le sue origini, ci sono il couscous, che la cucina siciliana ha ereditato da una delle tante popolazioni che sono passate dall'isola, preparato con le verdure, con la carne o col pesce, ma anche come dessert. E poi tutte le proposte di cibo di strada, dagli arancini di riso alle tipiche panelle di farina e ceci, e l'immancabile caponata di melanzane, piatto tipico della tradizione povera palermitana, buona da due punti di vista, perché la Mantia, da sempre attivo in iniziative benefiche, ha inventato Caponata for Life. Chi la ordina automaticamente regala un euro ai bambini malati di AIDS in Africa. Io praticamente sono stato il primo cuoco del mondo a mettere un euro, in questo caso, in un piatto povero che è straordinario, che è la caponata. Quindi tutte le sere, ogni caponata che vendo al ristorante, do un euro alla comunità di Sant'Egido per i bambini che stanno male in Africa, il progetto Dream AIDS. Ora, il fatto qual è? Che questa notizia è stata riportata da tutti i media del mondo, dalla CNN, Al Jazeera, CBC, cioè da tu. Palermo mi ha totalmente snobbato e sono molto incazzato di questo, perché la caponata appartiene a un concetto di cultura povera palermitana. La sua città non è nuova a questo tipo di indifferenza nei suoi confronti. Il suo passato spesso riaffiora e su Filippo La Mantia, adesso cuoco di fama internazionale, a volte c'è un po' di pregiudizio. Quando ripensa ai salotti buoni che in un certo periodo della sua vita gli hanno voltato le spalle e che adesso si fregiano di conoscerlo, Filippo parla di una situazione tragicomica. La falsità è una delle caratteristiche umane che gli fanno più male, lui che si è sempre fatto portavoce della verità con sensibilità e rispetto, sia nella sua prima professione, quella che lo ha portato a vivere esperienze tragiche, che ora, nei piatti che prepara. Eppure gli altri sono importanti per lui, come dimostrano le numerose operazioni a sfondo benefico che promuove. Ma da dove arriva questo suo carattere così aperto verso il prossimo? Forse dal destino, che gli ha fatto vivere certe situazioni. Un destino al quale lui crede fermamente. Certo, è tutto scritto, bello, tranquillo, archiviato, che è messo lì. Ogni tanto ma qualcuno strappa una pagina, capito? A cosa si riferisce, Filippo? Facciamo un passo indietro. Siamo in Sicilia, terra ricca di talenti, di contraddizioni, di storia e di realtà. È il 1979 e Filippo Lamantia, un giovane di solo 19 anni, ha appena conosciuto la sua ragazza. Palermo in quegli anni è teatro della seconda guerra di mafia. I corleonesi hanno da poco preso il comando e il sangue scorre copioso nel capoluogo siciliano. La madre della sua fidanzata è Letizia Battaglia, una fotoreporter. Le sue foto raccontano la storia di quella città fatta di opposti, dei profumi della vuciria, dei colori delle sue strade, ma anche del dolore dei suoi morti ammazzati. Filippo frequenta lo studio Battaglia. A volte si infila nella camera oscura per vedere quegli stralci di vita immortalati dalla macchina fotografica di Letizia, che emergono lentamente sulla carta. Filippo comincia a interessarsi alla fotografia e chiede a Letizia se può dare una mano. Dapprima si occupa dell'archivio. Gli passano sotto mano fotogrammi di una cronaca cruenta, quasi inverosimile per un ragazzo pieno di vitalità come lui, che fino ad allora ha frequentato solo Mondello e i circoli nautici. Ma il destino lo chiama. Da lì un giorno praticamente iniziai a uscire con loro per andare in giro e mi è capitato di fotografare il primo morto ammazzato. E da lì praticamente è nato un pochettino tutto. Perché è la cosa praticamente, ma mi ha fatto ma veramente talmente impressione che ho scoperto che vivevo in città praticamente delle cose che non mi che sarei che mai aspettato tutto qui. Ci ho scoperto praticamente la cronaca nera che della mia città. Quindi ma la mafia, i morti ammazzati, poi praticamente in quel periodo stava per scoppiare la guerra di mafia. Conseguentemente che mi sono trovato lì. Quindi iniziare ad andare in giro a fotografare i morti, a sviluppare le fotografie, a vedere praticamente delle cose belle ma anche veramente bruttissime. Vedere la morte da vicino segna Filippo. Non è facile rimanere impassibili di fronte alla violenza di un omicidio, al dolore delle famiglie, alla tragicità della scena che ti si presenta agli occhi. La prima volta che Letizia lo invita a seguirla, armato di macchina fotografica, Filippo non la dimenticherà mai. Da qui impara che raccontare una tragedia rispettandone i protagonisti non è facile. Ci vuole soprattutto rispetto. Lo stesso rispetto che anni dopo metterà nella sua cucina. Quando Filippo sviluppa le sue prime fotografie, ha un sussulto. All'emergere dell'immagine sulla carta fa seguito l'emergere dell'angoscia per l'accaduto. Le testimonianze colte attraverso il suo obiettivo sono vere, reali. I sentimenti contrastanti nei confronti di quello che vi è rappresentato sono palpabili. Filippo si appassiona al lavoro da fotoreporter che gli viene particolarmente bene. Letizia è fiera di averlo nella sua scuderia. Mostra infatti alcune delle sue foto all'amico Josef Kudelka, il fotografo dei famosi scatti sulla fine della primavera di Praga, e anche lui rimane colpito da quel giovane che registra la triste storia della sua città con tanta precisione e partecipazione al tempo stesso. Filippo si butta nella sua nuova professione, senza sapere che quella passione sta per portarlo a conoscere, anche se in circostanze poco piacevoli, un grande protagonista della lotta alla mafia che gli cambierà per sempre la vita. Nel frattempo, i delitti eccellenti passano tutti attraverso le sue inquadrature. Nell'omicidio Chinnici, Filippo è tra i primi ad arrivare sul luogo del delitto. Ma come si fa a entrare così dentro al dolore? Filippo decide di mostrare la sua partecipazione all'orrore della scena scattando le sue foto da una certa distanza. Solo allontanandosi da quello scempio può trovare l'equilibrio tra testimonianza e sensibilità. Il barbaro assassinio del generale Dalla Chiesa e della sua giovane moglie non soltanto ha suscitato in tutto il paese profonda commozione, ma ha posto in drammatica evidenza la gravità del fenomeno mafioso e delle sue probabili connessioni con il terrorismo. Ci si è resi conto, come ha detto il presidente Pertini, che la sfida allo Stato democratico è giunta a un livello non più tollerabile. Il 1982 è l'anno dell'omicidio Dalla Chiesa e Filippo non manca all'appuntamento. La sua vita si intreccia sempre più con quella della sua città. Sembra quasi che Palermo voglia attirare la sua attenzione su quello che il destino ha in serbo per lui, chiamandolo a fissare sulla pellicola un assaggio del suo futuro. Il suo carattere gli consente di rimanere comunque sintonizzato con la sua età. Filippo ha solo 22 anni e l'amore per la vita, le belle ragazze, le serate con gli amici è sempre presente. Proprio sui racconti di questa parte della sua vita così gioviale e spensierata, anni dopo verrà fatto un film, perché a Filippo piace raccontarsi e a Roma una sera si intrattiene fino a tardi nel suo ristorante con una sua cliente, Simona Izzo. E così nasce Tutte le donne della mia vita, dove il bel Filippo, con tutta la sua sicilianità più positiva, è interpretato da uno strepitoso Luca Zingaretti. Per tutti quelli che si ostinano ad amare. Eccolo! Puoi riferire al chef che c'è qualcosa che non va? Rodolfo! Io vado da lei, dove sto? Sporco di rossetto. Buono. 6.000 euro per tu! 7.000! E tu? Sei licenziato. Amore, ciao, sono io. Amore? Ma chi è? Mia madre. Tua madre ti chiama amore a quest'età? Uno è l'amore di mamma sempre, no? Chi era quello? Hai una donna? Sì. Lo capisci che non sono una donna che fa l'amore dopo 5 minuti? Sei dentro quella vita che vorrei. Ma torniamo alla Sicilia dei primi anni Ottanta. I genitori di Filippo hanno diverse attività in città. Eppure lui decide di non seguire la strada segnata dalla famiglia. Lui vuole sperimentare. Il suo occhio si ciba degli scenari che Palermo offre, che non sono solo quelli delle stragi, ma anche quelli dei profumi, dei colori di un'isola incredibile. Quelli che si porta dentro e che lo fanno essere l'uomo e il cuoco che è diventato. Le ragazze lo cercano. È facile rimediare dei sì per uno come lui, sportivo, simpatico, sempre con delle storie interessanti da raccontare, con un carattere aperto ereditato dalla mamma. Nel 1984 Filippo decide di affittare una casa in via Croce Rossa a Palermo. Una sorta di dépendance. La usa un po' come ufficio, ma soprattutto è un ottimo rifugio per portarci le sue conquiste. A giugno del 1985 decide di concedersi una vacanza. Parte in moto per 3 mesi, direzione Ibiza. E così disdice il contratto dell'appartamento in via Croce Rossa. A giugno che parto per andare a Ibiza in moto per 3 mesi, e mi ricordo che quando ero appunto a Ibiza ho comprato Repubblica e ho letto che era successa una strage di mafia a Palermo in via Croce Rossa. E ho detto ai miei amici, ma che strano, era il posto praticamente in cui avevo un ufficio, ok? Tra virgolette. È solo l'inizio dell'incubo che sta per attendere Filippo, che intanto non si preoccupa della notizia, ma si gode la sua vacanza alle Baleari. Il sole, il mare, l'amore. Questo vuole Filippo. A settembre torna dal suo viaggio e il suo destino è lì, ad attenderlo. La madre gli comunica che mentre era via l'hanno cercato i carabinieri. Lui pensa a qualche multa non pagata, qualche infrazione al codice della strada, niente di più. Ha ancora nelle orecchie la musica delle discoteche e negli occhi il viso dell'ultima ragazza con la quale ha passato parte della vacanza. È leggero. Gli ci voleva proprio un po' d'aria nuova lontano da Palermo. Alla radio passano uno dei suoi cantanti preferiti, Brian Ferry, che proprio quell'anno esce con Slave to Love. Fino a quel momento, anche per Filippo, l'amore è l'unica forma di schiavitù. Destini incrociati. Destini incrociati è a Roma, al seguito del cuoco siciliano più famoso del momento, Filippo Lamantia. La sicilianità è una delle prerogative della sua vita e della sua cucina. Le sue origini gli hanno fornito il bagaglio culturale sul quale ha costruito la sua professione. Ma il suo passato da fotoreporter a Palermo gli sta facendo conoscere l'altra faccia della sua isola, quella che lo metterà sulla strada dell'altro protagonista di oggi. Filippo è appena tornato da una vacanza. Ha lasciato il suo lavoro da fotoreporter per qualche mese. Aveva bisogno di svago. La madre lo avvisa che mentre era via l'hanno cercato i carabinieri. Andai praticamente a vedere che di cosa si trattasse e mi chiesero tutta una serie di informazioni del tipo lei dove è stato in questi mesi, ma con chi era. Quindi praticamente io ho prodotto tutta una serie di documentazioni anche che non capendo il motivo in tutto questo, tipo le ricevute che dell'albergo, che della nave, i miei amici andarono praticamente pure lì a testimoniare. Esattamente dopo sei mesi dall'interrogatorio, chiamiamolo, da tutte queste informazioni, una mattina alle 4 della mattina appunto, ma mi vengono ad arrestare circondando tutto il palazzo. È la metà di giugno del 1986. Filippo è appena rientrato da una delle sue serate a Mondello. L'estate palermitana è cominciata, si è appena addormentato e sente dare dei colpi forti alla porta. È solo un sogno, pensa. Non ha voglia di alzarsi, è troppo stanco. Anche quella sera, nell'intrattenere gli amici e nel far colpo su nuove fiamme, ha dato il massimo. Il rumore però aumenta. Adesso è certo che non si tratti di un sogno, ma ha più le sembianze di un incubo. Apre gli occhi e vede 30 carabinieri con altrettanti mitra puntati su di lui che gli intimano di non muoversi. Lo portano in caserma per 3 ore e poi lo trasferiscono a Lucciardone, il carcere di Palermo, dove Filippo viene finalmente a conoscenza delle motivazioni di quell'arresto. Partecipazione a strage di mafia, articolo 416 bis, associazione di tipo mafioso. E tutto si ricollega a quella strana coincidenza sulla via dove Filippo aveva il suo appartamento e alla notizia letta il 6 agosto dell'anno prima. Nini Cassarà, vicequestore di Palermo, rientrando dalla questura nella sua abitazione a via Croce Rossa, al civico 41, a bordo di un'alfetta scortata da 2 agenti, viene assassinato da un gruppo di 9 uomini appostati sulle finestre e sui piani dell'edificio di fronte. Il paradosso è questo, ma la mia vita è strana anche per questo motivo, perché io prima praticamente ho fotografato che con un impegno incredibile antimafia, praticamente perché poi le nostre fotografie andavano in tutte le mostre antimafia, in tutte le manifestazioni e cose varie, che fotografavo è la mia città dalla parte più allucinante, che era quello dei 380 morti ammazzati che io praticamente ho fotografato. E poi mi sono ritrovato praticamente come in uno specchio a guardarmi dall'altro lato, cioè a vivermi praticamente dall'interno una cosa che non mi riguardava assolutamente, coinvolto in un omicidio di mafia, capito? Cioè che è assurda se pensiamoci bene come storia. Un errore giudiziario che interviene a ribaltare la vita di un giovane di soli 26 anni e che di lì a poco lo porta a incrociare l'altro protagonista di oggi. Giovanni Falcone, che in quegli anni è già il magistrato che lotta aspramente contro la mafia, con l'unico obiettivo di porvi fine. La mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. La Sicilia è scritta nel DNA dei nostri due protagonisti. Come dice Falcone, è il segno di un'identità. Noi abbiamo avuto 500 anni di feudalesimo. Se ci si rendesse conto che il siciliano è prima di tutto siciliano, poi medico, avvocato o poliziotto, si capirebbe già meglio. Sono le parole di un siciliano che, come Lamantia, non si vuole arrendere. Mi dice, non farti cadere le braccia, corri forte, va più forte che puoi. Non devi voltare la faccia, non arrenderti né ora né mai. Filippo non si arrende all'apparente staticità della sua terra. Anzi, lui sta per cambiare drasticamente rotta. Da fotografo a fotografato, da soggetto a oggetto, nel giro di pochi mesi tutto si ribalta. Per un tragico errore giudiziario, adesso è lui ad essere colpito dai flash dei colleghi. Le stragi di mafia che fino ad allora venivano impresse sulla sua pellicola adesso si imprimono a forza nella sua esistenza. Quella mattina, quando praticamente che mi vennero a prendere, hanno circondato tutto il palazzo, giù al palazzo c'erano tutti i colleghi miei che fotografavano me. È il 1986 e l'aria che si respira in Italia sembra quella della giustizia, almeno in parte. Non solo è cominciato il maxi processo a Palermo, ma in marzo il Tribunale di Milano condanna Michele Sindona all'ergastolo quale mandante dell'omicidio di Giorgio Ambrosoli. In settembre la Corte d'Appello assolve con formula piena il conduttore televisivo Enzo Tortora, accusato ingiustamente di associazione per delinquere di stampo camorristico. E in dicembre si conclude anche il processo d'appello per la strage dell'Italicus, dopo 12 anni dall'accaduto, con la condanna di Mario Tutti e Luciano Franci, assolti in primo appello. Quello stesso anno ad Hollywood, mentre nell'aula bunker del Lucciardone si avvicendano al banco degli imputati i più temibili capi mafia, L'onore dei Prizzi di John Huston ottiene 8 nomination agli Oscar, di cui uno vinto dalla figlia Angelica come migliore attrice non protagonista. È la prima vera satira di mafia eccentrica, nera e grottesca, dove la retorica dell'onore viene sbeffeggiata. Charlie, quando cucini tu, se chiudo gli occhi e annuso, è come se tua madre fosse ancora qui con noi. Grazie, papà. Filippo Lamantia quell'anno non vuole sentir parlare di giustizia. Lui che è stato accusato ingiustamente di avere fornito la sua abitazione ai killer di Cassarà quel 4 agosto del 1985 in via Croce Rossa. Ad accusarlo Alberto Di Pisa, detto il Corvo di Palermo, PM del pool antimafia, strenuo nemico di Falcone. Autore delle lettere anonime del Corvo, appunto, nei mesi dei veleni a Palazzo di Giustizia qualche anno più tardi. Per Filippo la vita è diventata un incubo. Capisce che contro quelle logiche non c'è nulla da fare. È qualcosa di più grande di lui, che prescinde da ogni suo controllo. L'unica cosa che può fare è richiamare a sé tutte le sue risorse, la sua vitalità, la consapevolezza della sua innocenza e farsi forza. Il carcere lo aspetta. Tutte le contraddizioni e le tinte forti della sua terra sono lì, in quell'accusa. Sembra un brutto film. Io praticamente mi sono vissuto in quei mesi. Entrai in una parte tipo in un film che era praticamente il carcerato, quindi mi sono vissuto e mi sono comportato come un carcerato tutto qui. Questa esclusione forzata dal resto del mondo consente a Filippo di riflettere sulla vita in generale, sulle aspettative che uno ha, sui suoi sogni. La sua mente comincia ad aprirsi come non aveva mai fatto prima e a esplorare nuovi pensieri. Non ha mai avuto difficoltà nell'instaurare rapporti con gli altri. Lo stesso fa anche in carcere. Diventa un punto di riferimento, forte anche della sua innocenza. Porta avanti le sue giornate scandite da piccole cose. Quelle piccole cose che lo aiutano a non perdere il contatto con la realtà. Come il dormire, che diventa il vero spartiacque del susseguirsi identico delle giornate, o le confidenze con gli altri detenuti che allenano la sua sensibilità e, fondamentale, il rito del cibo. Non solo per il suo significato simbolico di nutrimento, ma anche per quello della condivisione. Sapere che la giornata ha degli appuntamenti obbligati che ti tengono ancorato alla tua fisicità, senza far partire la mente verso la follia, è un sollievo per Filippo. Devi dare una cadenza alla tua giornata. Infatti il rito della cucina lì dentro è stato praticamente fondamentale, perché il cibo era praticamente qualcosa che ti entrava alla famiglia. Quindi i profumi del cibo che ti tenevano accanto alla tua famiglia, capito? Alle tue tradizioni. Da bravo siciliano avverte l'importanza della cucina. Non intesa solo come alimentazione, ma come tradizione, storia, cultura. La sua terra gli ha lasciato anche questo in dono. La capacità di trovare nei profumi, nei sapori e nei colori del cibo l'accesso ad uno stato superiore della coscienza. Cancia colori assi da lontano. Ogni profumo capotto con me, restando cori e ghincia me mano. A terra che fuma me lassa sonnari. Destini incrociati. Destini incrociati è al carcere di Palermo del Luciardone, nel 1986, dove un innocente, Filippo Lamantia, sta scontando una pena per un reato che non ha commesso e che lo vede implicato nell'omicidio Cassarà. Mentre nell'aula bunker, a poca distanza dalla sua cella, si sta svolgendo il maxi processo di mafia voluto da Giovanni Falcone, il quale, di lì a qualche mese, darà una nuova direzione al destino di Filippo. Cucinare è l'unica attività che lo fa sentire vicino a casa, alle sue tradizioni. Il carcere è un'esperienza che sta facendo fare un percorso di crescita a Filippo. Il cibo è uno dei riti al quale tiene di più, non solo perché serve a scandire lo scorrere del tempo, ma anche per il suo significato simbolico. I compagni di cella lo aiutano a riscoprire i sapori della vecchia tradizione. La mancanza di attrezzature e materie prime aguzza il suo ingegno. Ho avuto che la fortuna di avere in cella con me praticamente gente che veniva anche dalle campagne. Quindi praticamente ho assimilato la loro cultura povera della cucina, al di là di chi fossero, capito? Cucinare non è facile in quelle situazioni, però piano piano diventa una necessità per Filippo. Fornelli da campo, niente coltelli, frigoriferi arrangiati con del ghiaccio. Eppure i risultati sono incredibili. Tutti vogliono partecipare alla sua mensa. Diventa un appuntamento obbligato. Cucinare è il suo nuovo modo di esprimere la sua passione per la sua terra. Non ci sono più scene di delitti da immortalare in uno scatto, ma anni di tradizioni da condensare in un piatto. La differenza con la fotografia è che qui non si celebra più la morte, ma la vita. Il passaggio dalla Sicilia dei delitti di mafia alla Sicilia dei sapori e profumi di una pietanza è il passaggio che lo consacra al suo nuovo destino. Ogni cosa ha un sapore diverso. Quasi tutto trova una nuova collocazione nel corso degli eventi. Ma quanto ancora deve durare la sua permanenza là dentro? Lui è innocente. Il suo avvocato non fa altro che cercare il modo per farlo uscire. Ma ecco l'incontro che cambia il suo destino. Giovanni Falcone, il magistrato da bravo siciliano in cerca sempre della verità, si interessa del caso e verifica che l'appartamento di Via Crocerossa, da dove spararono i killer, al momento dell'agguato a Cassarà, non era più intestato a Filippo Lamantia. Leggeva oltre, capito? Lui era palermitano, culturalmente aveva vissuto dentro praticamente che le borgate, era un grandissimo uomo che magistrato e non c'è più appunto per sto motivo, capito? Perché lui sapeva come erano andate le cose, capito? Falcone interviene a risolvere la situazione di Filippo, che il 24 dicembre del 1986, dopo quasi 7 mesi di carcere, può finalmente tornare a casa. Ma guarda, io mi ricordo quel momento che se fosse stamattina, fuori dal carcere c'erano almeno 500 persone. Cioè, tra l'altro quel giorno, il 24 dicembre, a Palermo c'erano meno 3 gradi e nevicava. Cioè, a Palermo non nevica mai. Cioè, tutta questa gente è stata 6 ore fuori dal Luciardone ad aspettarmi che usciva. Per me quella è stata una cosa straordinaria, veramente. Comunque, se avessi potuto uscire l'indomani, lo avrei fatto. Perché io per il 24 dicembre avevo organizzato un pranzo di Natale dove avevo invitato praticamente un sacco di detenuti, capito? A Filippo dispiace non poter passare quella serata con quelli che per 7 mesi sono stati il suo unico universo. Proprio per loro aveva pensato di cucinare il cenone di Natale e di condividere intorno a del cibo preparato da lui la tipica festività della famiglia. Ma quei volti, quei ricordi, le lunghe chiacchierate con i compagni lo accompagneranno per sempre. Mi ricordo che ho pianto tantissimo quando c'era quel corridoio con quella scena praticamente che non mi dimenticherò più, con tutte le celle chiuse, con tutte queste braccia ma che uscivano, che applaudivano il fatto che io uscissi. Quello è stato pazzesco. Da quell'esperienza porta con sé molto più della sofferenza per il torto subito. Porta con sé la possibilità di una nuova prospettiva, di un'altra visione del mondo. E ogni giorno da allora non può fare a meno di pensare alla fortuna di avere incontrato una persona come Falcone. Volta fuori lo aspetta il suo destino. Con la sua liberazione, Falcone gli ha dato la possibilità di trasformare quell'esperienza in opportunità. Una cosa è certa, basta con i morti ammazzati, basta con le fotografie. Adesso si deve dedicare a ricostruire il suo futuro. Passa molto tempo nel negozio della madre che vende prodotti per fare dolci a casa. Se prima del carcere non ci voleva mai andare, adesso ne sente quasi la necessità. La madre lo incanta con la sua arte del racconto. Le sue clienti la ascoltano volentieri e Filippo fa lo stesso, reduce dall'esperienza del Luciardone, è carta assorbente. E nei pomeriggi passati a vedere Fecola e Farina, scopre e apprezza l'eternità delle cose semplici. Questi sono gli anni dell'apprendistato per una nuova vita. Il cibo è la frontiera con la quale vuole confrontarsi, tornando prepotentemente alle origini, alla sua Sicilia. Dentro quello che sto facendo c'è praticamente il surrogato della Sicilia migliore, tutto qui. Dopo tutti questi anni passati a respirare la sua nuova vita, Filippo decide di mettere a frutto le esperienze fatte sino ad allora. Sente che cucinare è la sua vocazione. Lo fa per le sue donne, per la famiglia, per gli amici, si diverte. Adesso quello che sembrava essere solo un hobby è diventata una professione. La Mantia, il cui curriculum vanta certamente esperienze di ogni genere, è il cuoco che tutti conoscono, l'ambasciatore della cucina siciliana nel mondo. Il suo segreto, forse, è non dimenticare mai le sue origini e mettere la passione in ogni cosa che fa. Praticamente quando facevo il fotoreporter vivevo 20 ore al giorno lì dentro con la macchina al collo, ora faccio il cuoco e vivo praticamente qua dentro sempre. È anche una maniera di personalizzare un sacco appunto quello che io faccio. Sia i suoi piatti, sia i suoi scatti seguono due regole essenziali: pulizia e rispetto. I profumi e i colori della Sicilia arricchiscono il tutto dietro i fornelli, così come dietro l'obiettivo. Tra i suoi maggiori sostenitori ci sono giornalisti come Enrico Mentana, Cesare Bonamici, il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, il sindaco Gianni Alemanno, Francesco Cossiga, Bobo Craxi, Vittorio Sgarbi, ma anche Fiorello e Piero Chiambretti. Filippo, inoltre, è impegnato nel sociale con Caponata for Life. Sono lontani i ricordi della guerra di mafia, delle stragi che hanno insanguinato Palermo e nelle quali è rimasto per errore invischiato. Nella sua mente rimane però scolpito quel periodo, non solo perché vivere in Sicilia significa fare i conti quotidianamente con quel genere di cronaca, ma anche perché colui che è stato artefice della sua liberazione, Giovanni Falcone, ha subito il triste destino della strage di Capaci il 23 maggio del 1992. Come è scritto nel libretto de Il tempo sospeso del volo, un'opera teatrale dedicata a lui, Falcone è il Maradona dei magistrati. Per fermarlo bisogna fargli lo sgambetto. E così è stato. La Sicilia è anche questo. Terra generosa ma contraddittoria, quella che ha messo in galera un innocente, ma che gli ha anche permesso di diventare il cuoco di successo che è. La fotografia ormai per Filippo è solo un ricordo. Quell'incrocio con Falcone rimane però il suo scatto migliore, quello che porta dentro al cuore, un po' come tutti noi, anche se forse per lui c'è qualcosa di più. Migliaia di ragazzi in piazza Palermo, un saluto alla bara del giudice Falcone, hanno bisogno di una risposta. Hanno bisogno di protezione, i ragazzi sono stanchi dei boss al potere, i ragazzi non possono stare a vedere la terra sulla quale crescerà il loro frutto, bruciata, ogni loro ideale distrutto. Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.